Quindi buongiorno a tutti. Facciamo un esperimento di dove in poi, perché mi hanno detto che dipende dal fatto che i cellulari sono accesi. Dovrete spegnere tutti il cellulare, perché sennò ci sono delle interferenze che ci danno fastidio. Quindi per un vantaggio reciproco, ricordatevi dove poi sempre di farlo. Questo è un vecchio poveretto, un vecchio microfono, fa qualche cosa. Va bene? Ecco, speriamo che sia giusto. Io tecnico non lo so, non detto così. L'altra volta, affrettatevi a comprare e a procurarvi l'educazione sentimentale, ve lo sapete. Dunque, l'altra volta eravamo arrivati a un punto molto importante, abbiamo cominciato, vi ricordate, illustrando questo gusto delle immagini, questo gusto della scrittura che faceva premio quindi sul gusto del racconto che aveva Flaubert. Poi pian piano siamo arrivati un po' a indicare la situazione di Flaubert e la situazione borghese di Flaubert, il suo odio per la borghesia. Quindi è un po' curioso il fatto che uno, essendo curioso, mi adatto, insomma, che essendo borghese voglia prendere le distanze dalla borghesia. Voi appartenete a una generazione, per vostra fortuna e sfortuna, ideologica, perché siete nati in anni terribilmente prossimi, insomma, siete nati alla fine degli anni 80, più o meno. Lei quando è nata? 88, quindi sono delle vergogne solo a nominarle, insomma, no? Ma c'è stata invece una generazione precedente in cui la borghesia italiana, non solo italiana per la verità, si vergognava di essere borghese, questo per influsso influsso potentissimo del marxismo, che come sapete è stata uno il luogo ideologico più importante della seconda metà del XX secolo. Io conoscevo, avevo dei colleghi per esempio che, essendo borghese ricchissimi, ma straricche, andavano a lavorare in fabbrica, perché in questo modo gli sembrava di attenuare il senso di colpa che avevano nell'essere nati borghesi. La parola è molto interessante, perché poi in realtà voi ve la trovate tra i piedi continuamente, questa parola borghesia, odio per la borghesia, eccetera. Ma dove viene? La parola borghesia, forse sono cose che non tutti sanno, viene da borgo, e il concetto di borghesia comincia a diffondersi, a espandersi verso la fine del Medioevo. Che cos'era il borgo? Il borgo era la città, in buona sostanza. Era la città. E chi abitava il borgo? Lo abitavano industriali, commercianti, imprenditori, diciamo così, liberi professionisti, quindi per esempio avvocati, notai, no? Anche insegnanti. Qual era la caratteristica del borgo? È che dovevano lavorare costoro, come è facile intuire, perché per campare. Voi dite, ma questo capita a tutti? No! Perché quelli invece che rimanevano nel dominio del feudatario, invece stavano esclusivamente alla corte del feudatario, stavano a servizio del feudatario. Questi invece dovevano lavorare in proprio, e se non lavoravano non campavano, quindi il loro scopo era quello di fare profitti. Questa è una cosa su cui si riflette poco, che la borghesia aveva da una parte una libertà dal feudatario quando è nata, no? Quando è nata in Europa, dall'altra parte aveva però l'obbligo di produrre. Tutto questo si è naturalmente amplificato enormemente nel corso del tempo. Non solo, la borghesia è diventata pian piano una interlocutrice dei re, dei feudatari, poi dei re, degli imperatori, eccetera, da cui non si poteva più prescindere, evidentemente. Ma nella sede di profitto, questo è il senso del discorso, è chiaro che dimenticavano i borghesi quelli che erano i cosiddetti valori dello spirito, no? D'altra parte, una nostra pratica di vita, se incontriamo notai segnatamente, voi provate a fare una transazione dal notaio, poi vedete quello che vi costa, no? Vedete quello che vi costa? Cioè, soltanto a guardare la faccia del notaio dovete pagare 2.500 euro. Se rimanete un po' lì sono altri 2.500 euro. Questo è quello che è accaduto a me in tempi abbastanza recenti. Pensate al fraccello degli avvocati. Tutta questa gente, seguendo l'auri sacra fames, cioè il sordo sostanzialmente, dimentica i valori. Dimenticando i valori dello spirito, come si pone rispetto alla vita intellettuale, creativa, artistica? Evidentemente il dissidio. Ecco perché c'è sempre stato uno storico dissidio fra coloro che studiano, diciamo così, tra i poeti, diciamo così, tra gli artisti, poeti, eccetera, da una parte, e dall'altra parte coloro che producono, e imprenditori, negozianti, eccetera, hanno sempre rimproverato a quelli che studiano di perdere tempo, no? Perché non vedevano, seguitemi bene, questo è un discorso molto importante, perché non vedevano i frutti del loro lavoro, è chiaro il concetto, no? La sventurata, sciagurata ministra Letizia Moratti, adesso sindaco di Milano, che cosa aveva fatto? Aveva inteso l'università, dando luogo alla tragica riforma di cui voi siete sfortunati e incolpevoli protagonisti, che cosa aveva fatto? Aveva immaginato che l'università fosse produttrice di beni di consumo, non di cultura, se di cultura non ne sa un tubo, no? Non immaginava che la cultura è qualcosa che paga a lunga distanza, non è come costruire, capisci, un manufatto qualsiasi, è a lunga distanza che si vede, no? E allora si è inventata la storia della laurea brevis, che poi si è visto che non valeva nulla, che bisognava fare 5 anni, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre stato un dissidio sostanziale tra la classe borghese produttrice diciamo così, e gli uomini che si dedicano alla vita dello spirito. Ecco, voi dal momento che state facendo una facoltà umanistica, perché vorrei ricordarvi che voi siete iscritti a lingue in gran parte, chi è che è iscritto a lettere qui? Bene, ecco, io amo molto quelli che sono iscritti a lettere, lo dico subito, amo di meno quelli che sono iscritti a lingue, ma con un motivo semplicissimo, poi naturalmente con un buon padre cerco di essere equanime con gli uni e con gli altri. Perché? Perché non voglio sentire dire che uno viene qui a imparare una lingua. Prenderei a schiaffi chi mi dice che viene qui a imparare una lingua. Andate alla Berlitz School o altre scuole similari e imparate molto meglio l'inglese, il francese, lo spagnolo di quanto lo si impara in un'università. All'università, in una facoltà umanistica, si viene perché si chiama la facoltà di lettere e filosofia. Cioè si viene per imparare valori dello spirito, che questi valori valgono, scusate il gioco di parole, infinitamente. Quindi si viene per studiare il pensiero e la letteratura, chiaro? Non per imparare a diventare portieri d'albergo. Il concetto è chiaro? Devo essere più esplicito? Non si viene qui per imparare a diventare portieri d'albergo, magari notturni. Ciò detto, a un certo momento questa collusione tra borghesi e artisti, diciamo così, ai tempi nostri, i tempi che noi stiamo considerando, quelli di Flaubert, esplode. Perché che succede? Bisogna fare un piccolo resumé storico. Rivoluzione francese, sono cose che dovete sapere molto bene, quindi voi avrete cura di rivedere queste nozioni sui libri di storia del liceo. Questo è un... Se voi non sapete le guerre di secessione austriache, transia. Ma questo è una cosa che appartiene alla cultura, diciamo, comune, fondamentale, capite? Potete anche non sapere tutto sulla guerra dei 30 anni, ma dovete sapere molto bene questo periodo. Rivoluzione francese 1789, la rivoluzione va a finire letteralmente in Napoleone, che ne prende l'eredità e alcune cose ottime, per esempio questo bisogno di una nuova cultura giuridica, le prende dalla rivoluzione, essendo Napoleone uomo di intelligenza sconfinata, no? sapete che Napoleone era uno che se tu gli dai un libro da leggere, non sono aneddoti alla verità, lui leggeva il libro, poi era in grado di ripetere tutto quello che aveva letto. Aveva una memoria prodigiosa. Napoleone però diventa imperatore. Dobbiamo soffermarci un po' su queste questioni prima di arrivare a tornare a Flovi Flovi. Napoleone diventa imperatore, non re. Avete capito? Perché non poteva diventare re? Perché i francesi vedevano ormai la monarchia come il fumo negli occhi. Chi era il re che era stato l'ultimo re dei francesi, quello che fu decapitato? Luigi XVI. Quindi la parola re non si poteva più usare. Perdo un po' di tempo per dire queste cose, ma credo che siano molto interessanti. È la stessa cosa che era successa a Roma, quando cadde la monarchia e dopo ci fu l'impero Augusto eccetera, e in nessun modo si poteva accostare la figura degli imperatori romani a partire da Ottaviano Augusto a quella dei re. Tanto è vero che quando un imperatore che si chiamava Tito, l'arco di Tito eccetera, si innamorò di una regina che si chiamava Berenice, una storia che racconta Racine, una bellissima storia che racconta Racine, il popolo romano mostrò il suo dissenso e lui, Tito, pur amando Berenice, per non perdere il consenso del popolo romano, Svetonio, un grande autore, un grande storico, dice, se non ricordo male così, Titus invitus invitam Berenicem dimisit. Tito, senza volerlo, mandò via, licenziò Berenice che non lo voleva. I due si amavano, questa è la bellissima storia che racconta Racine, ma dovettero lasciarsi perché la monarchia non poteva inquinare in nessun modo l'impero. L'imperator era una rappresentanza del popolo, pur avendo un potere spaventoso, tant'è vero che faceva quel che voleva del popolo, però dipendeva dal popolo. Questo tra i romani. E quando Napoleone divenne imperatore, vi dico subito che non sarebbe mai diventato re, perché c'era la memoria della testa di Luigi XVI. Chiaro il concetto? Bene. Altra piccola notazione, niente, andiamo avanti ancora, poi la notazione la faremo, ce la facciamo dopo. Si arriva fine di Napoleone, Napoleone confinato a Sant'Elia, congresso di Vienna organizzato da Talleyrand e Metternich. Nel congresso di Vienna si decise che tutti i re, guardate, precedenti, tutte le monarchie precedenti dovevano tornare dove stavano. È il periodo famosissimo che si chiama Restaurazione. Quindi in Francia venne chi? Quale Luigi? Me lo dice lei in fondo? Lei, quel ragazzo che stava in fondo. Sì. Qual è il Luigi che venne? Luigi XVI e poi? Come? 18esimo e 17? Che fine ha fatto? Non lo sa. Ma forse neanche gli altri lo sanno. Luigi XVII non andò mai al trono, perché Luigi XVII nacque nel 1785, era figlio di Maria Antonietta e di Luigi XVI. E quando aveva 8 anni, poverino, successe il macello che è successo. Lo presero e lo misero in prigione, un bambino. Dopodiché lo costrinsero a dire che la madre aveva tradito la Francia e che gli aveva insegnato a farsi le seghe. Aveva 8 anni, nel carcere da solo. Quando aveva 10 anni si ammalò, non fu curato e morì. Quindi Luigi XVII, quello che avrebbe dovuto essere Luigi XVII, morì a dieci anni. Quindi venne Luigi XVIII. Avete capito? Rivoluzione francese, Napoleone, restaurazione, quindi torna Luigi XVIII, perché il XVII avete visto la fine che ha fatto. Dopo ci fu un sovrano reazionario, quindi c'è sempre una specie di terrore della rivoluzione francese che possa riprodursi. Se noi leggiamo Stendhal, per esempio, vediamo che questa paura che possono tornare i francesi e possono tornare le stragi della rivoluzione è continuo. Viene un sovrano reazionario che si chiama Carlo X, Luigi XVIII, Carlo X, e si arriva così al 1830 in cui viene il re che interessa a noi, che ci tocca da vicino. Si chiama Luigi Filippo, è un orleano. Questo Luigi Filippo fa qualcosa di strepitosamente nuovo, che se fate caso mostra che la storia non si può mai riprodurre esattamente come prima, ma si riproduce con variazioni. Mi seguite bene? Sono concetti un po' difficili. Mi seguite tutti? Beh, cosa ho detto? Che la storia non si riproduce mai come prima. Marx diceva che quando la storia si riproduce la seconda volta è una parodia. Nietzsche, il sommo, il dio del mio pensiero, così cominciate a capire un po' quali sono i miei orientamenti, Nietzsche, il più intelligente filosofo dopo Hegel, che cosa sostiene? Sostiene che le cose ritornano, ma non uguali, come una sorta di spirale, quindi con delle variazioni. Capite? Questo Luigi Filippo che diventa re e quindi la storia, la monarchia si ripetuta. Ma per la prima volta questo Luigi Filippo deve venire a patti con i famosi borghesi. Quindi tutti i posti di potere li deve mollare ai borghesi. Praticamente lui governa, ma direi nominalmente, ma il vero potere in Francia ce l'ha la borghesia, la quale borghesia si era corrotta, per così dire, nella ricerca dei profitti, al punto tale che tutto quello che non era profitto veniva escluso, no? Dovete immaginare che c'era una specie di, sì, con molte variazioni in meglio, di una specie di orrida logica berlusconiana, c'era nei primi anni 30, no? Con molte variazioni in meglio rispetto al momento attuale, questo va da sé. Tutto ciò che non aveva profitti. Gli artisti, i poeti, venivano abbandonati, venivano visti male. Questi in molti casi rispondevano: ah sì, voi borghesi ci osteggiate e noi ce ne freghiamo di voi. Noi viviamo in una posizione, che prende appunti, in una posizione di separatezza. Avrebbero detto come Dante: l'esilio che mi è dato a un ormi tegno, ci cacciate via e noi siamo ben contenti di essere cacciati via. Però intanto che cosa succede? Attenzione, che si crea una forbice. Cioè, se tu cacci via qualcuno, quel qualcuno tende ad assumere delle posizioni più radicalmente diverse dalle tue. È chiaro il punto? Perché normalmente, faccio una piccola parentesi, tutti i governi di sinistra hanno cercato di avere con loro, no? I partiti di estrema sinistra, per impedire che si radicalizzassero. Spesso non ci sono riusciti, e infatti noi abbiamo nel panorama politico italiano dei partiti di estrema sinistra, diciamo così, che non sono stati storicamente riassunti nel governo centrale, no? Cioè, pensate agli sforzi che ha fatto il PD per riassumere delle posizioni estreme intorno a sé e non c'è riuscito. Di Pietro non è stato riassunto e quindi Di Pietro è diventato il più a sinistra, sostanzialmente. Flaubert è un intellettuale. Usando questa espressione che non dovete mai usare, la usiamo solo per comodo, perché l'espressione intellettuale è un'espressione molto moderna, e anche vi dico quando è nata l'espressione intellettuale, non in quell'epoca. È nata molto dopo, ai tempi della Théâtre Dreyfus, cioè siamo alla fine del secolo dell'Ottocento. Prima la parola non esiste. Flaubert è un borghese che si dedica, un super borghese, che si dedica a lavori artistici, diciamo così, e si trova quindi profondamente emarginato nella sua figura di artista dalla società che ha intorno, come Flaubert attualmente molti altri, come Flaubert tutti i romantici. Alfredo Vigny, che è un poeta molto notevole, quando io vi nomino qualcuno per studiare, dato che non siete al liceo, ma siete all'università, una cosa che vi consiglierei di fare, che oggi con internet è diventata molto più semplice, è quello di andare a vedere Vigny, Google cercate, e vorrei che voi leggeste, perché questo vuol dire studiare con la testa e non con altre parti del corpo, e vorrei che voi leggeste qualche verso di Vigny. La cultura la si fa in modo parcellizzato, perché altrimenti rompe le palle. La cultura deve divertire. Avete capito il concetto? Ecco, una volta la Pleiade, cioè la più importante collezione di libri del mondo, lessi come presentazione qualcosa di geniale tanti anni fa. Cioè, la Pleiade sono libri mirabili e difficili. Lessi 15, questa era la quarta di copertina, 15.000 pagine di lettura appassionante. Io dico, ostia, ma insomma, lettura appassionante, però sono cose impegnative, ma era profondamente giusto. Allora, io vi nomino Vigny, voi andate a vedere qualche verso, 5-10 versi di Vigny, fate l'orecchio, poi se vi piace vedete un altro di versi, insomma, no? Ma mai studiare settorialmente, dovete andare per una certa direzione. Ma tutto quello che non capite o che vi pare stimolante, interessante, andate a vederlo. Ripeto, internet, che è la più grande conquista del mondo dopo la ruota e il fuoco, vi aiuta moltissimo in tutto questo. Vigny scrisse un dramma. Questo dramma si chiamava Chatterton. E lo scrisse, e il dramma venne rappresentato nel 1835. Siamo negli anni nostri, perché Flaubert è nato nel 21. Tanto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, l'altro grande scrittore francese dell'Ottocento, poeta questo, che tutti conoscete naturalmente, che è Baudelaire, è nato nel 21. Quindi sia Flaubert che Baudelaire, pensate che anno, erano nati nel 21. Pensate che Madame Bovary di Flaubert è stato pubblicato nel 57, d'accordo? E Les Fleurs du Mal sono pubblicati nel 57, quindi erano periodi di straordinario orgoglio intellettuale. Nel 35 viene rappresentato Chatterton, che racconta una storiaccia scema, come la maggior parte dei drammi romantici. È la storiaccia, diciamo così, di uno che non ha un poeta, che non riesce ad affermarsi in seno alla società, e poi in amore non riesce ad affermarsi. Cioè, i due luoghi di affermazione di un essere umano, potrei dire che sono il lavoro e l'amore, fallisce in entrambi. Chatterton, rifiutato dalla società borghese perché ama altri ideali, eccetera eccetera, poi le cose si ripetono, fra l'altro, dovete pensare che tutti questi poeti romantici vivevano in modo trasgressivo, alterato, bevendo, drogandosi, per aumentare le loro sensazioni. Cioè, non è che la droga è stata scoperta negli ultimi decenni. La droga era, non in chiave industriale, naturalmente, ma naturalmente era diffusissima al tempo di cui stiamo parlando. Durante la rappresentazione, cosa, qui si suicida il personaggio, durante una delle rappresentazioni di Chatterton, uno spettatore e si uccide in sala. Poco dopo, un altro, un giovane, viene trovato a casa sua. Si è ucciso, si è sparato. Ha una mano poggiata sull'ultima pagina del dramma Chatterton, la finestra è aperta, c'è la luce del tramonto, quindi un clima alla fine del mondo, per così dire, per ognuno. Due compagni di Flaubert, di collegio, si uccisero. Questo è abbastanza interessante. Il suicidio è un fenomeno centrale, no? Lo scrittore Albert Camus, che forse qualcuno di voi conosce di nome, nel libro Il mito di Sisifo, Google, Il mito di Sisifo, comincia in questo modo: esiste un solo problema filosofico veramente serio, quello del suicidio, cito a memoria, sapere se la vita vale o meno la pena d'essere vissuta. Quando è che ci si suicida? Qui capite che la domanda è immensa, naturalmente. È una domanda immensa. Quando si è malati, per motivi, diciamo così, i motivi più comuni li riassunse Durkheim, Emil Durkheim, in un libro dell'Ottocento che però è stato pubblicato moltissime volte perché appunto gli si è dato una grande importanza, che si chiama Le Suicide. E Durkheim dice sostanzialmente: il suicidio è il risultato di un conflitto con la società. Quindi il suicidio è il risultato di una situazione collettiva, no? È la collettività che ti induce. Tanto è vero che quando uno si uccide, spera sempre che, salvo in certe occasioni, che il suo gesto sia visto, che richiami attenzione, no? Ci sono poi naturalmente i suicidi silenziosi, che vogliono anzi fingere di non essersi suicidati, ma la maggior parte dei suicidi invece vuole richiamare attenzione. Questi poeti romantici che si suicidavano, poeti o aspiranti poeti romantici che si suicidavano, erano persone che volevano disperatamente attirare l'attenzione su di loro e sulla loro situazione precaria. Insomma, mutatis mutandis, voi siete una generazione particolarmente infelice. Perché infelice? Perché siete una generazione che, salvo naturalmente eccezioni, che è destinata a una vita, a un livello economico a dir poco precario. Posti di lavoro, come voi sapete, contratti stabili prima dei 40 anni sono impossibili, con tutto quello che consente dal punto di vista dei figli, del costruire una famiglia, un assetto come che sia della propria esistenza, eccetera, eccetera. Quindi, anche se naturalmente non è auspicabile per nessuno di voi, sarebbe comprensibile che a un certo punto, come avviene, un giovane non trova lavoro, l'età non è più giovane, oltretutto, e si ammazza, perché dice: io non ce la faccio a stare. Cioè, il suicida è uno che vuol dare una testimonianza la più dura e bruciante possibile, in corpo e vivi, cioè sul suo stesso corpo: mi ammazzo per farvi vedere, bastardi, che a questo mi avete ridotto. Si suicida chi vuol dare testimonianza. Si suicida anche, diciamo così, un altro genere di persone. Ah, anzi no, bisogna aggiungere un'altra caratteristica. Si suicida in solitario. È molto difficile che si suicidi una persona che vive in un gruppo, che lo protegge, che lo conforta, no? Magari non ha lavoro, ma magari la moglie lo ha tradito mille volte, la moglie amatissima, si è risposato e un'altra volta è stato tradito. Possono capitare cose di questo genere, eh? Però ha degli amici che gli sono intorno, lo sostengono. Il suicidio avviene in palazzi di periferia, in una domenica di agosto, bollente, con tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, come diceva la cosa. E tu rimani solo, il telefono non squilla, nessuno ti cerca, i negozi sono chiusi, è agosto, afferrate la situazione? Venite da queste parti in un giorno d'agosto e se avete un cattivo umore è facile che guardiate una macchina che sta arrivando per vedere se per caso, quando l'asfalto bolle a 40 gradi, venite, venite. Quindi non solo il suicidio ha valore di testimonianza, ma il suicidio nasce, possiamo dire, da una condizione di particolare depressione e solitudine. Questa solitudine naturalmente era avvertita da qualunque persona si metta fuori dall'attività borghese, dall'attività produttiva. Voi dite, ma Flaubert era un borghese? Sì, la famiglia. Ma lui com'era? Un antiborghese? E qui comincia a diventare intrigante il discorso. Com'era Flaubert? Flaubert era un ragazzo che era cresciuto in solitudine. C'era la sorellina, che era la sua unica compagna, vi ho detto che aveva 3 anni di meno, il fratello aveva 9 anni di più, quindi non aveva nessun rapporto con il fratello praticamente. Viveva, vi dicevo, con il dito in bocca da bambino, solitario, imparò a leggere tardi, così eccetera, faceva qualcosa di strano che incuriosisce sempre, cioè sghignazzava, scherzava, beffeggiava anche nel modo più volgare. Quando uno scherza molto, quando uno sghignazza troppo, non c'è da fidarsi, è uno che sta male. È uno che è pieno di rabbia e convoglia la sua rabbia in forme socialmente sopportabili come quella del riso. Vedremo come si manifesta questo senso di riso trasgressivo in lui, quel che è certo che lui fa degli studi che sono all'antitesi della sua vocazione, cioè studi di legge, studia legge. Studiare legge non mi piace. Siamo nel 43, anno accademico, 1843-44. Lui sta studiando a Parigi, legge, e per le vacanze di Natale è tornato a casa. La famiglia è una famiglia che sta molto bene economicamente, eh? Il padre era, come vi ho detto, il primario dell'ospedale di Rouen, loro erano di Rouen, e il padre decide di comprare casa, come tutte le famiglie borghesi, che a un certo momento, avendo un po' di soldi, decidono di investire quel po' di soldi che hanno comprando la villetta al mare. Lei ce l'ha la villetta al mare? Ce l'ha. La villetta al mare, comprando la casa in montagna, e così al mare allora andavano solo i ricchi in villeggiatura, e c'era un posto di villeggiatura sulla costa normanna che si chiamava Deauville, e quindi il padre disse a lui e al fratello maggiore di andare a Deauville per vedere se era possibile trovare. gennaio siamo, durante le vacanze di Natale. Vanno, come vanno? Vanno in macchina? No, come si fa? Vanno in carrozza con due cavalli. Chi è che guida al ritorno? Chi è che tiene le redini? Lui, gusti gusti. Il fratello è vicino. A un certo momento lui vede un carro che sta arrivando nel senso opposto. Tu e il fratello vede. E vede però che lui non si sposta minimamente. Quindi cosa gli avrà detto il fratello? Guardaci, voi spostate, eccetera. Gli avrà detto qualcosa del genere. Un temore, che l'avrà detto in francese. Temore mort, una roba del genere, così. Le méchants mort. Lui non si sposta, vede questo carro che gli viene davanti e gli sembra che questo carro sia pieno di luci e sente intorno a sé suoni e luci. Una situazione, come se avesse detto un tempo, psichedelica, come se avesse preso qualcosa, insomma, no? Voi con la vostra esperienza potete confermarlo, insomma, no? Come se si fosse fatto abbondantemente. Un tri, esattamente. Il fratello, sempre più incazzato a questo punto, gli si butta addosso e gli avrà detto qualcosa, stronzo, ma che stai facendo, eccetera, eccetera. Flaubert era altissimo, è alto 1,85, 1,85 di allora è come 2,10 di adesso, ed era grosso, quindi insomma farlo fuori non era tanto facile. Il fratello gli va addosso, riesce a evitare l'incidente, dopodiché lui, Gustavo, è più morto che vivo, malato. Che cosa ha avuto? La scienza medica del tempo è estremamente, cioè, come se ci fossero 100 secoli fra allora, no? A quei tempi la medicina era semplicissima. Tu stavi male e ti toglievano il sangue, salassi. Tu stavi male e ti mettevano qualcosa dietro per farti andare di corpo. Sostanzialmente erano due cose, o salassi o, capito? Erano due cose, certo, no? Non seguì una certa dieta, insomma, pensarono che lui fosse epilettico. Lui effettivamente stava male, ma attenzione, aveva visto anche un qualcosa che non l'avrebbe più abbandonato, cioè un piacere delle luci, dei colori e delle immagini. Vi ricordate che siamo partiti di qui nel nostro discorso? Era come se l'avesse visto nella sua propria esistenza. La dieta fu ferrea, né carne rossa, né fumo, né caffè, né niente, ma lui pensò che questa fosse la grande occasione per piantarla con gli studi universitari. Io in queste condizioni, disse in famiglia, non posso più tornare da solo a studiare diritto a Parigi. Così, lasciò l'università. Prendiamoci qui. Ci vediamo domani.